Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla 14ª puntata dedicata alla lettura del romanzo Extenebris, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a parlare di pubblicazione e abbiamo elencato le numerose difficoltà che portano molti autori che non trovano sbocco negli editori tradizionali ad autopubblicarsi. Poiché autopubblicarsi significa pubblicarsi da soli, la qualità finale del prodotto è strettamente legata alle capacità individuali degli autori. Per cui nella stragrande maggioranza dei casi è veramente terribile. Questo basso livello qualitativo ha purtroppo marchiato tutti gli autori, anche quelli che riescono a produrre buoni o ottimi prodotti. In sostanza, l'interrogativo che legge intorno al self-publisher è: se è così bravo, perché nessuna casa editrice seria lo pubblica? In America, come al solito, sono avanti rispetto a noi. Gli autopubblicati si sono ricavati del rispetto dei lettori e di tutto il sistema, grazie ai servizi professionali che consentono loro di essere veramente come piccole case editrici. Le copertine, l'editing e tutti i servizi collaterali che sono disponibili hanno portato il mercato del self-publishing a costituire una percentuale molto alta del mercato totale, con punte di venduto talvolta superiori alle edizioni tradizionali. Tanto per fare un esempio, 50 sfumature di grigio è stato autopubblicato. Purtroppo in Italia siamo molto indietro. Da una parte gli autori sono pigri, o si aspettano che, a fronte di una qualità che attribuiscono non si sa bene su quali basi al loro prodotto, le case editrici debbano pubblicarli e quindi non si muovono da soli. Dall'altra, quando pure si decidono a pubblicarsi da soli, non ci investono sopra, non comprendendo come il lettore non sia interessato a chi ha materialmente pubblicato il libro, ma alla qualità dello stesso. Con una copertina brutta, un editing raffazzonato o addirittura assente, nessuno avrà voglia di spendere neppure pochi centesimi per comprare il loro prodotto. Va bene, per oggi chiudiamo qui. Possiamo passare alla lettura della 14ª puntata del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 14. Tom si sentiva come se qualcuno gli avesse strappato via la carne brano a brano. La superficie dura del terreno gli premeva contro la schiena e gli angoli aguzzi delle pietre vi scavavano solchi dolorosi. Il buio che turbinava su di lui, dandogli un violento senso di nausea, era appena rischiarato da una torcia caduta a terra non lontana dai suoi piedi. Non capiva dove si trovava, ma certo non era più nella stanza della fortezza della solitudine nella quale si erano barricati. Anzi, era sicuro di non trovarsi proprio più nella fortezza. Il vento freddo che gli solleticava la pelle fino a fargli venire i brividi gli faceva pensare di essere all'aria aperta, forse sulla cima di una collina. Fece uno sforzo per sollevarsi. Attorno a lui intravide le sagome scure di corpi gettati alla rinfusa, come vittime della furia di un gigante. Sentì qualche gemito e capì che anche gli altri erano sopravvissuti. Si alzò e andò alla ricerca di Diana. La sua prima impressione fu confermata. Sembravano essere sulle alture neglette, ma il buio gli impediva di capire dove. Come fosse successo era un mistero. Trovò la ragazza accucciata ai piedi di una ripida parete di roccia, esanime. Non lontano da lei c'era Rinerus, cosciente ma privo di forze. Arla e Eliel li raggiunsero barcollanti. Cosa è successo? Chiese Tom. Dove siamo? L'unica risposta che ottenne fu uno sguardo stupito da parte dei due. Si girò verso Diana, che giaceva inerte a terra. Non poteva che essere stata lei. Come aveva fatto a sparire per due volte la parete rocciosa della Rocca delle Tenebre, così li aveva trasportati via dalla fortezza della solitudine. Non potevano esserci altre spiegazioni. Si chinò sulla ragazza e le accarezzò il volto pallido. Sperava che quell'ennesimo sforzo non le costasse la vita. In quel momento sentì Rinerus mormorare qualche cosa. Si accostò al vecchio per sentire cosa stava dicendo. Magia degli abissi. La voce del mago era appena udibile. Cosa vuoi dire? Chiese Tom, sorreggendogli la testa per alleviargli lo sforzo di parlare. Cos'è la magia degli abissi? Quella che mi ha impedito di raggiungervi prima. La voce, ispida come le scaglie di un serpente, proveniva dal buio dietro le loro spalle. Si ginnarono di scatto. Rordo emerse dall'oscurità a pochi metri di distanza dal gruppo. Bel tentativo, demone, disse, ma Tom non riuscì a capire a chi fosse rivolto. Ma non sufficiente. Quando ho capito quello che stavi facendo, mi sono gettato nel vortice che hai creato e vi ho seguiti. Chi sei? Chiese Tom, sguinando la spada di Cremien e ancora una volta ricevendo in cambio un brivido gelido. Cosa vuoi da noi? Rordu sogghignò, passandosi la lingua grigia sulle labbra e lasciando rampeggiare i suoi denti affilati alla luce della torcia. La domanda interessante è: cosa vuole Shaltul da Rinerus? Si rispose sfilando la spada dalla cintura. ma la risposta la darei da Obama quando vi avrò trascinato nella catacomba al suo cospetto. L'ombra fece un passo avanti verso di loro. In quel momento, Arla scattò in avanti, brandendo la sua spada. Questa volta fu più accorta dell'affondo. La ferita che ancora le bruciava sul braccio le ricordava l'abilità di Rordo di svanire e riapparire in un istante. Eliel si portò dall'altro lato, tentando di tenere impegnata la creatura su due fronti. Ma Rordo era troppo abile e potente. Usava la sua arma con una velocità che lasciava storditi i suoi avversari. Colpiva, poi scivolava di lato, svaniva e riappariva appena più in là del loro angolo visuale. Sfruttava il buio per mimetizzarsi e poi metteva a segno i suoi colpi. Eliel venne colpito due volte, disarmato. Con un calcio l'ombra lo fece rotolare nella polvere. Arla fu gettata a terra ed evitò per un pelo che la lama affilata le tagliasse la gola. Nella foga batté la testa contro una pietra e rimase stordito a terra. Rordo la ignorò e si diresse verso Diana e Lineros, dei quali li separava solo Tom, che tremante gli puntava contro la spada di Re Gremian. L'uomo afferrò un fendente dal basso in alto, mettendoci troppa foga. L'ombra non ebbe nemmeno la necessità di svanire per schivare il colpo. Mentre il peso della spada trascinava le braccia di Tom verso il basso, lo colpì in pieno volto con un pugno. Si chinò su Diana, che lo scrutava inorridita e tremante, ma rimaneva immobile. Era paralizzata dalla paura e non reagì neppure quando l'ombra le posò una mano sul fianco e socchiuse gli occhi senza palpebre. Sembrava intento a percepire il potere oscuro che era cresciuto dentro di lei. Il silenzio irreale che dominava la scena fu lacerato da un urlo che crebbe di intensità fino a sembrare un tuono. Rordo si girò, sorpreso. Eliel si era alzato da terra e si stava avvicinando a lui con le braccia allargate, i suoi occhi turchese che splendevano nel buio. I suoi tratti si fecero indistinti, come avvolti da una sottile nebbia. Poi il suo volto e il suo corpo cominciarono a cambiare. Rordo si mise in posizione di guardia. Quando il processo di mutazione del cangiante fu terminato, due ombre identiche si fronteggiavano. Per non concedere a Rordo il vantaggio della spada, Eliel gli si gettò addosso e l'arma volteggiò nel buio alle loro spalle. Rotolarono a terra, avvinghiati in una stretta mortale, e dopo un istante nessuno avrebbe potuto distinguerli. Arla, che nel frattempo era rinvenuta e aveva ritrovato la sua arma, rimase a distanza, incerta sul da farsi. I suoi occhi seguivano i due corpi che sparivano e riapparivano nelle pozze di tenebra che la luce incerta e rossastra della torcia faticava a disperdere. Quando i due rotolarono verso il ciglio di un burrone che si apriva a qualche decina di metri da loro, Tom decise che doveva intervenire. Si avvicinò con la spada sollevata. La trasformazione di Eliel lo aveva sconvolto, ma alla fine aveva dato un senso alle stranezze che li avevano accompagnati fino a quel momento. La strana sensazione di non essere visibili che tutti loro avevano avuto quando avevano attraversato l'esercito dei necromanti. La velocità sorprendente con la quale le guardie dell'ingresso della fortezza si erano convinti a farle entrare. E, infine, certo, l'essere stati trasportati lì. Magia degli abissi. Dunque Eliel era un demone. La spada di Gremian avrebbe avuto ragione di lui e dell'ombra alla quale era avvinghiata. Colpì per una prima volta, mancando il bersaglio. Colpì di nuovo e stavolta strappò un grido di dolore da uno dei due contendenti. Si separarono e Tom si accanì sul più vicino dei due, quello che aveva già ferito, che però gli svanì davanti. Riapparve al suo fianco e lo abbrancò con forza selvaggia, trascinandolo verso il precipizio. I suoi artigli penetrarono i vestiti di Tom, poi la sua carne, quasi fosse intenzionato a strappargli il cuore a mani nude. A quella distanza la spada era d'impaccio, perciò Tom si la lasciò scivolare dalla mano, ma il dolore che gli stavano infliggendo le grinfie della creatura lo accecò. Stava veramente infilandole nel suo petto. Gli mancò il fiato. Poi sentì la pressione venire meno e si accorse che l'altra ombra era tornata a stringere il collo della prima. Diede uno strattone per allontanarle da lui e sentì il terreno cedere sotto i loro piedi. Gli artigli gli scavarono solchi profondi e dolorosi nella carne, mentre la creatura tentava di rimanere aggrappato con lui per non perdere l'equilibrio. Non ci riuscì. Con un grido striduo precipitò nel vuoto e svanì dalla loro vista. Con il vestito lacero e il petto sanguinante, Tom osservò l'ombra che era ancora di fronte a lui prendere di nuovo le sembianze del ragazzo che conosceva come Eliel. Arla gli posò la punta della spada alla gola, mentre i suoi occhi turchesi dardeggiavano attorno per valutare la situazione. «Muovi solo un muscolo e sei morto, qualunque cosa tu sia», disse con voce gelida. «Non mi muoverò», rispose Eliel in tono stranamente conciliante, «anche se la tua spada non può farmi nulla». Arla fece per aumentare la pressione della punta sul collo, come a dimostrare il contrario, ma sobbalzò quando sentì la voce di Lineros provenire da appena dietro di lei. «Ha ragione lui», disse il vecchio, «che doveva essersi alzato e averli raggiunti barcollando. Un demone superiore come un cangiante non può essere ferito dall'acciaio». Eliel annuì, con un lieve sorriso sulle labbra. Quasi in contemporanea, sia Tom che Arla abbassarono lo sguardo sulle ferite del ragazzo, o del demone, o di qualsiasi cosa fosse. Non c'era alcun taglio sulla carne, neppure sangue sui vestiti. La forza del braccio venne meno alla donna e la spada si abbassò fino a raggiungere il terreno roccioso. Avevano appena sconfitto un nemico per trovarsi a affrontarne uno più potente. Solo l'arcanio ha effetto sui demoni superiori come lui. Linaros a quel punto spostò brevemente lo sguardo su Tom. I suoi occhi scintillarono, facendo transitare un muto messaggio, che su un momento l'uomo non seppe come interpretare. E noi non abbiamo nessuna arma forgiata con quel metallo mistico. Arcanio, non era il metallo di cui erano costituite le catene con cui era tenuto prigioniero Linaros nelle viscere della fortezza della solitudine? Ora capiva quello che gli aveva sussurrato il vecchio nella segreta. Aveva pensato che fossero solo i guaneggiamenti di una mente ottenebrata dalle torture e dalla lunghissima reclusione. Per fortuna gli aveva dato ascolto. Scivolò alle spalle di Ariel, tentando di non dare troppo nell'occhio. Cosa ci fa uno schiavo di Shaltul tra di noi? Linaros in realtà sapeva o sospettava la verità, ma doveva prendere tempo. Devo proteggere una nera, rispose con semplicità Ariel. Perché mentire ormai? Era stato scoperto, e ogni ulteriore finzione sarebbe stata sciocca e inutile. Shaltul la vuole come alleata per trionfare nella guerra del buio. In quel momento il viso pallido di Diana comparve alle spalle di Arla. Camminava leggermente piegata e teneva una mano sul ventre. Gli occhi neri come la notte, che li avvolgeva, erano gonfi di lacrime che le rotolavano sulle guance maciate. La sua espressione era dolente, ma fiera. «Dunque tu mi hai protetto solo per il volere del tuo padrone?» Ariel chiese con voce tremante. «Anche le parole dolci che mi sussurravi e le carezze sono state menzogne?» «I demoni sono maestri dell'inganno», disse Arla, prevenendo la risposta di Ariel. «Anche se lei era stata l'unica a sospettare sempre del ragazzo, non sarebbe mai atteso un epilogo del genere». Io, Eliel esitò. Quello che sembrava dolore gli velò gli occhi turchesi per un istante. Io sono uno schiavo del vincolo e devo obbedire al nuovo evocatore. Diana si voltò di scatto, singhiozzando e interrompendo così la parola del cangiante. Ma da quando ti ho riconosciuta, il desiderio di ribellarmi al mio padrone si è acuito ancora. Voglio solo proteggerti e starti vicino, credimi, Diana. Allungò una mano verso la ragazza, come per farla girare verso di lui. In quell'esatto momento Tom scattò in avanti e gli cinse il polso con un braccialetto di metallo lucente. Eliel gridò come se fosse stato ustionato e tentò invano di sfilarselo. Il suo sguardo implorante si posò su Tom, poi su Arla e Linaros, incontrando solo indifferenza. Si accasciò a terra, privo di forze. «È finito con le tue menzogne, demone!» gli gridò in faccia Tom, in un'improvvisa esplosione di ira. L'uomo poi si allontanò per andare a consolare Diana, che si era allontanata singhiozzando. «Cosa ne facciamo?» chiese Arla, spostandosi dietro Eliel con la spada sguainata, come un boia pronto a eseguire una condanna. Linaros sembrava aver perso di nuovo le forze e si sedette a fatica di fronte al giovane, che mugolava per il dolore che gli provocava il contatto con il metallo. Lo scrutò come se volesse leggere di dentro, poi un velo di stanchezza gli oscurò lo sguardo e chiuse gli occhi. «Come ti ho detto, non possiamo distruggerlo se non con un arcano», disse sospirando. «Con il bracciale indosso non può farci del male perché inibisce i suoi poteri, ma non possiamo rischiare di lasciarlo qui». «E dunque cosa dobbiamo fare di lui?» chiese Tom, tornato sui suoi passi abbracciando Diana, che continuava a piangere in silenzio. «Dobbiamo raggiungere il luogo dove i simulacri passeranno a Diana il potere della nera», rispose Linaros. «Eliel dovrà venire con noi, non ci sono alternative». «Credevo che una volta che ti avessimo raggiunto, la puttura potessi guarire». Tom vedeva allontanarsi sempre più la luce in fondo al tunnel tenebroso del quale si era infilato. «Diana non è malata, e non è una guarigione quello che l'aspetta. Il potere oscuro cresce in lei come nelle altre della linea di sangue prima di lei. L'unica speranza che ha di sopravvivere è imparare a conoscere e controllarlo. Ma prima di tutto deve accettarlo, e questo, ti assicuro, è il passo più difficile». Tom e Diana annuirono. Anche Eliel sembrava seguire con attenzione le parole del vecchio, con il viso deformato dalla sofferenza che gli infliggeva il contatto con l'arcano. «In passato c'era una vera e propria cerimonia di iniziazione e di investitura», continuò Linaros, «ma tutto era più semplice perché i discendenti della linea di sangue crescevano e venivano educati nella consapevolezza di quello che li attendeva. Adesso tutto è diverso. Diana non accetta di venire a compromessi con una forza che è, e lo è veramente, la quintessenza della malvagità. Ma una volta che questi simulacri l'avranno investita con una nuova nera, lei non rischierà più di morire, vero? Era l'unica cosa che veramente interessava a Tom. Non è così semplice. I simulacri, come tutto ciò che appartiene all'oltremondo, sono sotto il controllo di Vama. Non sotto il suo completo dominio, è vero, ma ci dovrà essere una forte sinergia perché la cerimonia abbia successo. Diana dovrà desiderare di divenire la nera». Il vecchio non disse altro, non ce n'era bisogno. Tutto era appeso a un filo sottile, come quello che intesseva la ragnatela di avvenimenti che li avvolgeva. Una catena di se e di ma, che solo in una delle molteplici combinazioni possibili avrebbe portato alla conclusione che tutti auspicavano. In ogni altro caso, non avrebbero avuto scampo. Dove si trova questo luogo dove vorresti celebrare la della cerimonia? Ce n'è uno a qualche giorno di viaggio da qui. È un cerchio di pietra che protegge uno dei pochi punti di potere della Madre Terra rimasti incontaminati dal dominio del potere oscuro. Al suo interno, forse i simulacri troveranno la forza per liberarsi dal gioco del negromante per il tempo necessario. Tiene spossata, non ce la farà a camminare ancora per qualche giorno, replicò Tom. Credo Carla possa darci una mano. Di Nero sposò i suoi occhi grigi acciaio sulla donna, che sobbalzò. È stato un vero piacere scoprire che esiste ancora qualcuno con il dono della taumaturgia su Notturia. Temevo che fosse un talento perso durante la guerra del buio. Tu sai di... La donna si interruppe, guardò prima di lui e poi Tom. Possa alleviare il suo dolore e rallentare il decorso del suo male, riprese soltanto dopo che il vecchio annuì, sorridendole. Il potere oscuro della divora è troppo potente per me. Taumaturgia? Chiese Tom. Sì, il talento di curare le persone con l'imposizione delle mani, annuì Linnaeus. Un'arte antica che trae il suo potere dalla madre terra. Per questo pensavo che fosse andato perduto. Il mio popolo pensa che la mia capacità di guarire sia frutto di un patto con il potere oscuro. Mi hanno bandita, rivelò Arla, chinando il capo. Per questo la nascondo. Ho paura che chi mi conosce possa scambiarmi per una creatura delle tenebre o con qualcuno che ha stretto un patto. Ma non è così. Io posso vedere la malattia degli uomini e posso curarla. Tom la guardò con occhi nuovi. Ecco spiegato perché avesse tenuto sempre nascoste le cure con le quali alleviava la sofferenza di Diana, e pensare che proprio a causa di questo aveva sospettato di lei. Un lamento straziante di Diana interruppe la conversazione. La ragazza era riversa a terra e si contorceva dal dolore. Tom e Arla si lanciarono verso di lei, ignorando Eliel che giaceva inerte poco oltre. L'uomo la sorresse, accarezzandole i capelli e sussurrando le parole di conforto nelle orecchie, mentre Arla posava con delicatezza le mani sul suo stomaco. Una luminosità verdognola si diffuse tra le sue dita, aumentando di intensità poco a poco. Diana ebbe un ultimo spasmo, poi cominciò a calmarsi. Arla cominciò a muovere le mani come se stesse sfilando qualcosa dal suo stomaco e davanti allo sguardo attonito di Tom tolse qualcosa di nero e sottile come il fumo dal corpo della ragazza. Una volta che le dita della donna l'avevano lasciato, il nero galleggiò per qualche istante nell'aria e poi svanì. A ogni movimento delle mani di Arla, il tremore di Diana diminuiva, così come una smorfia di dolore dipinta sul suo volto. Alla fine dell'operazione la donna sembrava stravolta dalla stanchezza e aveva la fronte madida di sudore, ma la ragazza sembrava finalmente riposare tranquilla. Il liquore pallido del giorno li avvolse, il piccolo sorgeva dalla fortezza della solitudine emersi dalle tenebre che si stavano dissolvendo. Incombeva su di loro a poche miglia di distanza, troppo vicino per non destare timore. Nonostante la stanchezza di tutti, attesero solo un paio d'ore prima di allontanarsi, seguendo il passo incerto di Linnaeus aggrappato a un corto ramo che gli serviva da bastone. In fondo al burrone, il mucchietto di stracci rimase immobile per tutto il giorno. Riparato delle profonde ombre scolpite dalla roccia attorno a lui, Rordu l'ombra attese che calasse di nuovo la notte prima di fare anche solo un movimento. Poi si sollevò lento, osservandosi le ferite che gli aveva inferto la spada di quell'omuncolo. Bruciavano come l'inferno. La pelle grigia delle braccia che penzolava a brandelli gli artigli delle mani, molti dei quali si erano spezzati nella caduta. Alzò lo sguardo verso l'alto. Il crepaccio si inerpicava per centinaia di metri. Nessun essere vivente sarebbe sopravvissuto alla caduta. Anche un'ombra come lui aveva rischiato che l'urto gli staccasse la testa dal resto del corpo, mettendo fine alla sua esistenza. Nessuno avrebbe potuto ritrovarlo laggiù, e il suo corpo si sarebbe putrefatto in poco tempo, rendendo impossibile anche a Vama il negromante richiamarlo dall'oltremondo. Digrignò i denti al pensiero della sconfitta bruciante che aveva subito da parte del demone cangiante, schiavo di Shaltul. Era stato intelligente e abile nell'assumere la sua sembianza, e quindi combattere con le sue stesse armi. Lo aveva colto di sorpresa quando gli sembrava averle ormai sconfitti con facilità. Non doveva farsi guidare dalla rabbia, però. L'avevano battuto, ma non l'avevano distrutto. Cosa doveva fare? Avevano di nuovo un po' di vantaggio su di lui. Questa volta non aveva idea di dove si stessero dirigendo. Ma soprattutto avevano dimostrato di poterlo sconfiggere e quindi non poteva affrontarli da solo. Tornare da Vama era con una sconfitta e senza nulla in mano era pericoloso, però. Cercò di fare il punto su cosa sapeva, per cercare di capire se poteva contrastare con qualche notizia la rabbia che di certo si sarebbe abbattuta su di lui. Un demone superiore stava proteggendo il gruppo di persone che Shaltul aveva infiltrato nel regno dei negromanti ed essi avevano liberato Linnaeus, il vecchio mago della parola. Tra di loro c'era una ragazza con un potere oscuro enorme, ma senza controllo. Nella sua mente cominciò a farsi strada un sospetto. I suoi occhi senza pupille, che vagavano distratti sulle rocce della stretta gola, si posarono su un oggetto che giaceva a qualche passo da lui. Si avvicinò e si chinò per raccoglierlo. Un libro. I brandelli di stoffa accanto a esso gli suggerirono che doveva averlo strappato via all'uomo che l'aveva separato dal cangiante nel parossismo che aveva preceduto la caduta. Osservò la copertina di pelle scura e screpolata, poi sfogliò le pagine di pergamena ingiallita. Non c'era scritto nulla sopra, se non due frasi che sembravano incise in profondità come ferite rosso carminio. La prima per la linfa che sgorga ignara, la seconda per salvare la nera. Le parole non gli dicevano nulla, se non l'ultima, la nera. Erano secoli che non esisteva più la linea di sangue, estinta con la conquista della Rocca delle Tenebre e l'inizio della Guerra del Buio. Ma il sospetto che si era fatto strada nella sua mente stava acquistando forza. Quel libro fremeva di potere magico, ma non di potere oscuro. Sembrava magia della parola. Non sapeva neppure che esistessero ancora oggetti del genere sul notturno. Quello che aveva visto e sentito assumeva una prospettiva nuova e inquietante. La ragazza poteva essere una discendente della linea di sangue e Linerus avrebbe potuto farla diventare la nuova nera. Ed era sotto la protezione di Sha'Tul. Quello che aveva scoperto poteva spostare gli equilibri della Guerra del Buio. Doveva riferire tutto a Vama. I solchi che gli artigli di Rordu gli avevano scavato sul petto bruciano come rivolo di metallo fuso. Il suo petto si alza e abbassa come un mantice, che invece di attenuare il dolore lo attizza. Il sollievo che il potere taumaturgico delle mani di Arla gli ha portato sembra cancellato all'improvviso. La cosciante notte di notturnia pare stringersi attorno a lui tentando di strangolarlo. Apre gli occhi, colto all'improvviso da un sospetto. Intravede una sagoma più nera del buio aggrappata al suo petto e lancia un grido che rimane sordo, perdendosi senza echi. Il muso della creatura si alza a scrutarlo e lui riconosce gli occhi senza pupille dell'ombra. Rordu emette una specie di grugnito bestiale e lui scorge tracce del suo sangue sulle zanne giallastre. Tenta di vincolarsi, ma gli artigli della creatura sono conficcati a fondo nella sua carne e ogni suo movimento gli costa dolori lancinanti e nuove perdite di sangue. Alla fine, con un ultimo gesto disperato, riesce ad allontanare l'ombra. Si alza in piedi per fronteggiarlo, pur rendendosi conto che, ridotto com'è e per di più disarmato, rappresenta un avversario ridicolo per un combattente scaltro e potente come Rordu. Ma la creatura non sembra più interessata a lui. Nelle sue mani appare un libro, che Tom riconosce subito. Il varco. Si rende conto che non ha più in tasca. L'ombra deve averglielo sottratto. Rordu sogghigna di nuovo, aprendolo su una pagina vuota, mentre lui lo osserva inorridito. Apre la bocca e lascia gocciare il suo sangue sulla superficie rugosa della pergamena. All'improvviso Tom comprende il pericolo insito in quello che Rordu sta facendo. Con il varco e il suo sangue, l'ombra potrebbe superare la barriera del mondo e giungere sulla terra. Fa per gettarsi sulla creatura, ma è troppo tardi. Rordu svanisce nel nulla, lasciandolo abbrancare le fitte tenebre. Tom si risvegliò all'improvviso. Le ferite gli bruciavano davvero, ma la sua attenzione era rivolta al libricino che costituiva la sua unica via d'uscita dalla notturna. Si frugò le tasche, poi guardò con attenzione il terreno attorno al suo giaciglio notturno. Il varco era sparito. Si impose di calmarsi e di ricordare. Dopo la lotta con Rordu e la caduta dell'ombra nel precipizio, non l'aveva più visto. Fece mente locale. Erano distrutti dalla stanchezza, lui era ferito, Diana sempre più debole. Il loro unico pensiero era stato quello di allontanarsi dalla fortezza della solitudine e raggiungere il luogo di potere di cui aveva parlato Linnaeus. Un passo dietro l'altro, aiutare Diana quando non ce la faceva più. Da due giorni intero non c'era stato spazio per nient'altro nella sua mente. E la sera, dopo che Arla si era occupata prima della ragazza e poi delle ferite che lo scontro con Rordu gli aveva lasciato addosso, un riposo senza sogni, simile alla notte senza stelle che gravava su di loro, fino a quel momento. La disperazione calò su di lui. Il barco era la sua valvola di sfogo, la sua assicurazione sulla vita. Si era sempre detto che poteva continuare l'avventura proprio in virtù del fatto che aveva una via d'uscita. Anzi, lo stesso calarsi in quel mondo così alieno gli era stato reso possibile dal fatto che aveva la possibilità di fuggirne. Una goccia di sangue e sarebbe tornata alla sua realtà. La lasciava come ultima, disperata mossa, ma tutto quello che aveva fatto fino a quel momento si basava sulle solide fondamenta del fatto che avrebbe potuto farlo. D'ora in poi invece sarebbe stato come un equilibrista senza rete. Ogni rischio che avrebbe corso dopo quel momento sarebbe stato mortale e senza vie di fuga. Un crampo lo colse alla bocca dello stomaco e la nausea d'improvviso la costrinse a vomitare. Arla, che sonnecchiava con un solo occhio, seduto nella zeme di lui, si girò. «Tutto bene?» chiese. Tom sentì il suo sguardo interrogativo frugare nel buio, pur non vedendolo. «Sì, sì», rispose schiarendosi la voce. solo un incubo. La donna non aggiunse altro, gli incubi erano compagni assidui nelle angosciose notti di quel mondo tenebroso. Il problema per lui era che fino allora aveva vissuto ogni istante sui notturni come se fosse stato un brutto sogno, con la certezza di avere l'antidoto per disperderlo. Ora, invece, temeva che sarebbe durato per sempre. Diana rimase immobile finché non sentì che tutti i movimenti del loro piccolo accampamento erano terminati. Poi attese ancora per essere certa che nessuno si svegliasse, come era successo poco prima a Tom. Adesso che Carla aveva ricominciato a alleviare il suo dolore, la sua mente era un po' più sgombra e riuscì a concentrarsi su altre cose oltre al mare oscuro che cresceva dentro. Scoprire che Liel non era quello che diceva di essere era stato un duro colpo per lei. Che non fosse neppure umano e che agisse per conto di uno dei suoi nemici, poi, era stata una scoperta che l'aveva sconvolta. Ma c'era qualcosa in lei che non voleva accettare i fatti per come si presentavano. Aveva vissuto quasi in simbiosi con Eliel per parecchi giorni e poteva percepire che c'era qualcosa di vero nelle parole che aveva pronunciato quando l'avevano smascherato. Doveva capire cosa. Il piccolo fuoco ai piedi di Arla si era ridotto a pochi tizzoni, il cui baluginero e rossastro ormai non rischiarava più nemmeno a un paio di metri di distanza. La donna aveva chinato il capo in avanti e sembrava sonnecchiare, anche se i suoi sensi vigili avrebbero svegliato all'istante in caso di pericolo, forse se lei fosse stata veramente silenziosa. Si alzò in piedi e con estrema cautela cominciò ad avanzare nell'oscurità, verso la sagoma di Eliel, accucciata ai piedi di una grande roccia. Negli ultimi tempi la sua vista al buio era migliorata in maniera sorprendente. Doveva essere uno degli effetti collaterali del processo che stava avanzando inesorabile dentro di lei. Per controllare le forze delle tenebre doveva poterle vedere. Rabbrividì, scacciando il pensiero che tornò acquattato nei recessi della sua mente, pronto a presentarsi di nuovo quando fosse stata più vulnerabile. Si accostò a Eliel. Il ragazzo sembrava riposare in un sonno agitato, ma Diana non voleva farsi ingannare. Non era quello che sembrava. Infatti non fu necessario neppure toccarlo per fargli aprire gli occhi. La loro luce turchese si posò su di lei. Come aveva fatto a pensare che fossero normali, anche in un mondo strano come notturno? Diana, mormorò lui, subito zittito dalla ragazza che gli fece cenno di tacere. Perché? Gli chiese, maledicendosi per le lacrime che le stavano di nuovo gonfiando gli occhi. Si era ripromesso di non farlo, ma si sentiva debole e fragile. Perché sono quello che sono? Gli chiese con un tono dimesso di Eliel. O perché sono costretto a obbedire a un vincolo che non posso combattere? Diana non rispose, trattenendo a stento un nuovo singhiozzo. Capisco che tu ti senti tradita dal mio comportamento, chiese lui, accarezzandole la mano. Lei la ritirò, rabbrividendo. Quello che ero obbligato a fare, avrei potuto farlo in tutt'altra maniera, ma non ho voluto, non ho potuto. Sono una creatura degli abissi, è vero, ma sono schiavo di questa dimensione da talmente tanto tempo che sento questo aspetto come mio, la natura umana come quella che desidero mantenere. Tu mi hai ingannato, rispose lei, per poi abbassare subito il tono della voce. Se li avessero scoperti la conversazione sarebbe stata interrotta e invece lei voleva capire. È vero, lo ammetto, e le acchino il capo nel dirlo, ma non avevo scelta. Un demone richiamato dagli abissi non può ribellarsi al suo evocatore, pena la distruzione su questo mondo e l'impossibilità di tornare al nostro. Nei lunghi anni che ho passato qui mi hanno tolto il desiderio di farvi ritorno e questo indebolisce il potere di Shaltul su di me. Non lo elimina però. Tu stai facendo quello che ti viene ordinato, vuoi portarmi da lui? Sì, ho fatto quello che mi era stato ordinato, ma nel farlo ho imparato a conoscerti e ho pensato... Si bloccò come impaurito dalle sue stesse parole. Il silenzio di Diana lo spronò a continuare. Ho pensato che forse il potere della nera poteva spezzare il vincolo e restituirmi la libertà. I suoi occhi brillarono e la ragazza evidesse che c'era qualcos'altro. Qualcosa che Elia non voleva o non poteva ammettere neppure con se stesso. Le lacrime continuavano a rotolare senza freno sulle guance di Diana e lei per la prima volta da quando aveva scoperto la vera natura di Eliel provò l'impulso di accarezzare il suo viso. Però si bloccò, assillato da un dubbio. Qual è il tuo vero aspetto? Chiese trattenendo il respiro impaurita dalla possibile risposta. Che senso ha chiedermelo? Gli occhi turchesi scavarono nell'animo della ragazza. Io posso assumere qualsiasi forma in questo mondo e negli abissi non potresti neppure vedermi. Questo è l'aspetto con il quale ti ho conosciuta e non voglio cambiarlo. Diana non rispose, il suo cuore era in tumulto e non aveva più la forza di continuare quella conversazione. Avrebbe voluto chiedergli se riusciva a sopportare il dolore che gli causava il contatto con l'arcano, ma non sapeva cosa avrebbe fatto se l'avesse risposto di no. Si allontanò, continuando a percepire la presenza di Eliel dietro le sue spalle e il suo sguardo che non si staccava da lei. Tornò ad accucciarsi sul suo giaciglio e chiuse gli occhi. Continuò a piangere finché il sonno non ebbe pietà di lei e la accolse.